Sei un navigatore spirituale, ho buttato su un po' di santi e qualcuno ci ha dato la mano. E abbiamo preso ispirazione dalle vite. Allora io spero che si senta, io non so se si sente il microfono. Se qualcuno ci può dire se si sente, noi lo sentiamo, io sento la mia voce. Ok, adesso si sente. Allora, perfetto. Detto questo, noi partiamo, così ci aggiustiamo meglio. Noi partiamo con il primo pezzo. Ok. Che lo scelgo io. Ok. Lo scelgo io. Quindi stasera si parlerà di... Ok, adesso ora mi dicono che si sente. Quindi stasera si farà più o meno il punto sulla scena italiana, underground, punk e non solo. Si farà il punto, perché ovviamente 2 ore sono troppo poche. E poi sì, lor signori si esibiranno in qualcosa di pornografico, ovviamente. Siete su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Partiamo subito con il primo gruppo italiano. Loro sono di Torino. Questo è un pezzo abbastanza old, però è bello, ci piace. Opportuni sguardi attraggono, luce del sole, vestiti, sporcizia dell'oro. Le corse per di fiato, giuro a mio fratello servo di continuare a giurare. Verme che si nutre, morbo che contagia, nella stessa carne di cui pochi conoscono il sapore. Vivi fratello servo e corri, che se ti fermi pensi e non ti devi far pensare. Loro erano gli Arsenico con Fratello Servo e partiamo con questa serata italiana, anche a tratti do it yourself. Solo a tratti. Solo a tratti do it yourself, così introduciamo subito il discorso, che le cose perse sono molto legate al do it yourself, anzi i cose perse. No, le cose perse. Ok. Non c'è un articolo, però i cosi persi. Ok. Se siamo i cosi persi, in realtà siamo i fratelli gemelli cattivi delle cose perse. Sì, Mauretto si è perso perché è andato a parlare con un collettivo di un centro sociale a Monterotondo, cantiere, che ci ha organizzato un concerto il 29 maggio con Banda Bassotti, Gang e Claxon a Monterotondo. E vai, prima pubblicità fatta. prima pubblicità. Allora, se volete ovviamente vedere un po' che innanzitutto la scoprire la vena poetica del cantante nonché bassista delle Cose Perse, andate su www.coseperse.it, dove ci sono i suoi iscritti. I miei iscritti addirittura. Le mie memorie dal sottosuolo. Allora, queste Cose Perse, dai, facciamo le domande prima canoniche. Però queste Cose Perse, quando nascono, come nascono, dove nascono, perché nascono e via dicendo. Una storia lunga, si parte da molti molti anni fa, quando siamo stati bambini insieme. Intanto io comincio con questa specifica. Insomma, questa è noi suonavamo già prima, diciamo dal 98 insieme, sempre con gli stessi componenti. Fra l'altro c'erano qualche altro ragazzo che si alternava, diciamo così, basso, chitarra. Abbiamo cambiato un po' di componenti, però siamo rimasti sempre, diciamo, lo zoccolo duro delle Cose Perse. Siamo rimasti sempre noi tre. Diciamo che come Cose Perse abbiamo iniziato, che mi sembra che era il 93. No, scusami, il 2003. Il 93 precoce. Diciamo, ufficialmente, con la prima registrazione ufficiale, primo disco ufficiale del 93, 2003, quindi diciamo che siamo nati un po' così. L'idea all'inizio era sempre la solita, diciamo così, cioè si suona per divertimento, cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo. Ancora non era, diciamo che ancora non ci eravamo votati totalmente al do it yourself, anche se comunque un'idea ce l'eravamo fatta, perché sai, se inizi a suonare da ragazzini, beh, comunque, cioè, già iniziando a suonare fai do it yourself, sì, dire. In un certo senso, lo fai comunque per necessità, no? Esatto. Diciamo così. Beh, sai, però dai, quando sei ragazzino cominci a suonare, no, ai tempi delle scuole medie, quindi chissà che cosa fai, no? Pensi che sia una cosa semplice, o comunque che poi, diciamo, alla fine non è che sia una cosa complicata, no. Però non conosci ancora gli schemi giusti, quindi te rifai un po' a quello che è la discografia mainstream, diciamo così, e i sogni di gloria, ecco. Poi piano piano crescendo abbiamo suonato pure in band differenti per un periodo. Durante, diciamo, la fine degli anni 90 abbiamo suonato in band differenti, e dopo ci siamo rincontrati e ci abbiamo avuto questa idea di tornare un po' alle origini, stilisticamente differenti comunque, cantato in italiano. Questa è una cosa che avevamo già, come posso dire, sottolineato all'inizio, cioè ci eravamo già accordati all'inizio per questa cosa. E ma per una questione stilistica il cantato in italiano? Per una questione di messaggio. Ok. Perché comunque l'inglese è sicuramente una lingua musicale, sicuramente per il rock sarà, insomma, migliore. Però, poi diciamocelo, per quanto uno possa comunque parlare bene l'inglese, conoscerlo alla perfezione, non sarà mai come la propria lingua. Quindi, chiaro. Diciamo che è stato più un mezzo così d'espressione, più semplice, più diretto. E poi tra l'altro è anche una bella sfida, perché può risultare anche appunto più facile. Dice, vabbè, canto in inglese, poi tra l'altro posso scrivere qualunque cosa, magari la maggior parte delle persone non mi capirà mai. Invece poi dal punto di vista anche metrico, poi comunque, cioè, insomma, in italiano non è, uno dice sembra che no, non è una lingua che non va bene per il punk rock, ma non è vero, perché comunque ci sono tanti esempi io ritengo magari fantastico. Più per abitudine, sì. Si pensa. C'è pure una cosa che mi hanno fatto notare, nessuno tiene in conto, mi hanno fatto notare poche settimane fa, che ogni cultura ha un suo modo di esprimersi, di parlare. Se tu ti leggi i testi inglesi e li traduci in italiano, sembrano delle cazzate. Sì, la maggior parte. Vedi, per esempio, i testi dei Guns N' Roses. Un gruppo a caso. Sono delle cose allucinanti, cioè, abbiamo già capito cosa non ascolteremo questa sera e nel futuro di Radio Noise. Anche se io li amavo molto, però poi rendendomi conto, sì, sono un esempio di testi veramente obbrobriosi. Però quella è una questione culturale, non è che sono stupidi e non sanno scrivere un testo. Perché leggi un testo italiano, leggi un De André, giusto per fare un esempio. Certo. Quindi effettivamente è molto difficile non solo tradurre un testo dall'italiano a un'altra lingua, in questo caso l'inglese, ma anche tradurre un modo di pensiero diverso. Comunque sì, se c'è la necessità di far arrivare un messaggio, e lì l'italiano mi dicono Guns N' Roses gruppo di merda. Bella, supportiamo. portiamo, beh, qualche canzoncina dai, Mario, se la cavava. Però no, dobbiamo sempre dare ragione agli ascoltatori, quindi sì, certo, un po' di merda. Sì, un po' come si dà ragione al cliente, no? Ma io ho una domanda per il nostro speaker, ma l'amore per i Cancerosi era corrisposto? Quando l'intervistato diventa l'intervistatore. Rifletto sulla cosa, poi magari ti rispondo. Okay. Ma ritengo linea di massima di no. Va bene, allora, detto questo, passiamo al prossimo pezzo. Io questa sera non c'è la scaletta. Il buon Flavio delle Cose Perse mi ha, sotto mia richiesta, mi ha dato un po' di gruppi. Magari parliamo anche di quei gruppi, se magari vuoi. Sì, ma io stasera voglio parlare delle Cose Perse. Ok. E di come vedono loro la musica e tutto quello che gira intorno. Allora adesso ci andiamo a ascoltare i Sant'Antonio. San Antonio sono nell'NBA, è un'altra cosa. Con Amaro Finale, e poi ci ascoltiamo il primo pezzo dal vivo delle Cose Perse. A dopo. L'hai fatto, è arrivato il tuo momento, hai dato scacco matto, hai dato la tua verità. Hai deluso chi pensavi di conoscere, hai deluso tutti quanti avanti. È ora di sopprimere, è ora di sparire, è ora che le regole non le fai più. Dimmi se ti resta altro che l'amaro in bocca, se ti resta l'amaro in bocca. bene come altri numeri. Cerchi di combinazione, cerchi in combinazione, fidando le necessità di essere se stessi. Hai vinto la battaglia ma la guerra è andata persa. Girano le sale come altri numeri, cerchi in combinazione, sfidando le necessità di essere se stessi. Hai vinto la battaglia ma la guerra è andata persa. Nel tuo gioco sa di go, nel tuo gioco sa di go. Stop. Arriva sempre il momento in cui si pagano i conti. Io voglio sapere il tuo di quant'è. Arriva sempre il momento in cui si pagano i conti. Il tuo di quant'è, il tuo di quant'è. Sempre il momento in cui si pagano i conti. Io voglio sapere il tuo di quant'è. Arriva sempre il momento in cui si pagano i conti. Oh no, il tuo di quant'è. Creduto che il futuro lo fai tu con le tue mani. Ti ho delusa, bambina, ti ho delusa. Pensavi per davvero che era come volevi tu. Ti ho delusa e adesso è creduto che il futuro lo fai tu con le tue mani. Ti ho delusa, bambina, ti ho delusa. Pensavi per davvero che era come volevi tu. Ti ho delusa e adesso dicono che la scelta di mettere il pezzo dopo che hanno suonato le cose perse non va bene. Tra l'altro io volevo anche, c'è anche un'altra persona che ovviamente, come ho detto l'altra volta, fa parte dell'entourage in qualche modo di Radio Noise, che è colui che fa, buonasera, fa i flyer, colui che costruisce i flyer, colui che fa flyer. Comunque grazie mio caro collega per avermi presentato solo dopo 24 minuti di trasmissione. Ma dulcis in fundo, io tristemente su una sedia ho capito di non avere un mio microfono. Vabbè, comunque acquisteremo un altro microfono solo per te. Non fa rosa niente, te lo copro. Vabbè, l'importante è che funzioni. Io sono una persona, ho voce, stasera sono a Radio Noise in compagnia delle cose perse di questo stronzone di nome Renato, che tra l'altro si chiama come non me. Non si dicono i nomi. Non si dice. Quell'alone di mistero è stato. Vabbè, ma Renato, ma che nome è? Un Renato, cioè, ma che nome è? Non è un nome, è una definizione, non è un nome. Comunque buonasera a tutti. Comunque la critica del pezzo dopo l'esecuzione live era proprio la mia, nel senso che è brutto ammazzare il momento del pathos che c'è alla fine del pezzo. Un bel applauso, le prime parole sincere che si hanno dopo. È vero, quindi ci rifaremo immediatamente. Meno male ma adesso ci sono. Facciamo finta che il pezzo l'hanno appena eseguito. Che fatica, cazzo. Bravi, un applauso, facciamo un applauso. Fai il giro finale. Fai il giro finale. Ecco, bravi. Ah, l'ha sfiatato canta sta canzone. Allora, vai. Io vai. Sì. Questo era il conto. Beh, il primo pezzo del nostro ultimo disco. Non so cosa devo dire su questa canzone. Penso che si spiega. Arriva sempre il momento in cui si pagano i conti. Sì, penso che si spieghi bene da sé. Era dedicata a una persona che, diciamo, in quel momento aveva un conto in sospeso con me da pagare. Ok. Sì, decisamente. E quindi non è uno di quei testi generici, no, proprio. Molto preciso, sì, molto preciso. Sì, sì, sì. Ma è allora, ad personam, visto che va di moda in questo periodo. Sì. No, ma a me piace molto scrivere testi, non sono tutti così, anzi, però scrivere testi, diciamo, ad personam, nel senso da esperienze, che però poi possono risultare molto generali. Certo. Sono esperienze che si vive, che vivono più o meno tutti quotidianamente. Sì, esatto. Ovviamente. E allora, a questo punto, io, se voi siete d'accordo, vi farei suonare un altro brano. Subito un altro brano, così. Siete timidi, siete emozionati. Siamo emozionati, siamo timidi, siamo piccoli. Quindi possiamo suonare un altro brano, va bene? Va bene. Che non ci siamo preparati, ecco. Musica e volume. Musica e volume. Vuoi sentire musica e volume? Un pezzo difficilissimo che abbiamo scritto con come si chiama quello lì? Sì. Vabbè, insomma, con un con Johnny Marr. Esatto, il chitarrista degli Smiths. Mi ha guardato tutti allibiti. Parlo di un altro pezzo? Sì. No, in verità ho fatto una battuta e Andrea ha capito una cosa vera. Che effettivamente no, è vera. Potremmo fare un pezzo che in realtà in un certo senso ha scritto. No, vabbè, ma lasciamo questa suspense, abbiamo due ore. Dopo no? Il velo di mistero. Il velo di mistero, Johnny Marr, che ha scritto un pezzo per le cose perse. Tanto il suono della città. Il suono della città, vai. Proviamo a vivere e a non pensare a musica e volume, e sangue nelle vene e noi. E poi il cerchio nel bene, l'odore della pioggia sciolta nella neve. Insieme a tanti visi incerti, guardi stati attimi, temporalmente intatti. Infatti non ci lasciamo da qui, ricominciamo da qui ora, sai. Per la vita è così. L'urlo nel cuore, non c'è tempo e dolore. È un anello, mi brilla il dito come calore. E se questo è il sapore, lasciate ancora sentire. Lasciamosi al mare avvenire, lasciamo stare il confine. Pareti troppo rigide e muri bianco cielo. Ora sai, non c'è più tempo per noi. Situazioni fragili, specchi come immagini di tragici eventi. Non vanno più per noi, già sai che è per noi. che non siamo altro che noi. Però continua ad essere così, e allora è bene, ed è il principio del sì. A volerci provare sembrano acque più chiare. Tante la sabbia scorre addosso, lasciamola stare. Applauso ci vuole, fatemi un applauso perché meritate. Peraltro stasera potrete sentire in diretta quella che tutti pensano sia una leggenda, ma non lo è, che il sottoscritto Flavio, che è l'autore di quasi tutti i testi, si dimentica i testi. Ma è, cioè, è quasi automatico. Sì, quindi non sono solo. Sì, no, non sei il solo. Ah, non sei il solo. Piacere. Ci siamo che non è normale una cosa del genere. Quindi non è il solo, ma non è normale. No, diciamo che quando ci sono troppe idee in testa, sai, troppe informazioni. Sì, sì. È questione di... È come se il chitarrista si dimentica la parte di chitarra che deve suonare il bassista o il batterista o il tastierista, è uguale. Quindi ma succede. Sì, ma non la facciamo passare come una cosa. A te non è mai successo. A Relax Video Mitra non è mai successo. A me succede, ma non la mettiamo come una cosa chic. No, non ho mai detto che è una cosa chic. No, in verità è una cosa chic che noi cose perse facciamo apposta. Chiamate le cose perse, ve lo giusto, potete permettere. Esatto, le cose perse, tutto torna. Cioè, sta nel nome, chi ti viene a dire cosa se tu ti dimentichi qualcosa, eh? Peraltro prima notavo che è fantastico dire siamo qui con le cose perse. È un ascoltatore che si collega. Allora le hai trovate. Sì, un ascoltatore che si collega potrebbe magari chiedere le chiavi della macchina che non si ritrova più. Non è che sono lì tra noi, vabbè. Allora, si diceva che... Una bacheca, sarà il titolo del nostro prossimo disco. Allora, il prossimo disco delle cose perse si chiamerà Bacheca. Bacheca, ecco, no, l'abbiamo detto. Avrà in copertina una bacheca in cui ci sarà scritto le cose cose perse. Sarà, secondo me, un'idea fighissima. Ma secondo me... È da sviluppare questo. Tipo ufficio oggetti smarriti. Esatto. Beh, secondo me stavi dicendo... No, stavo dicendo una cosa brutta, quindi Mario, vediamo. No, allora, noi Radio Noise vi ha invitato anche per fare un po' il punto sulla scena italiana punk e non solo. Quindi, tra l'altro, con Flavio era già stato fatto un mezzo discorso al telefono qualche tempo fa, al volo, un discorso molto veloce. Sì, sul fatto che comunque nessuno di noi andava più a... Non presenziava più a concerti e roba varia. E ci siamo chiesti il perché. Ci siamo chiesti, ma siamo invecchiati noi? Oppure effettivamente c'è una dispersione generale? Partiamo dalla cosa più brutta. Allora, di guarda, io non amo assolutamente cercare i perché. È una cosa che sto smettendo di fare, perché perché sono tanti e poi riuscire a trovarli è tutta un'opinione soggettiva. O meglio, quello che trovi è un'opinione soggettiva, è anche una realtà che costruisci tu. Sicuramente siamo invecchiati. Io inizio ad avere i primi ciuffi di barba bianca, i primi perché capelli bianchi. Perché ha la barba bianca? Perché io ho la barba. E quindi niente, cioè, sicuramente cresci e cambiano certe cose. Però devo dire anche che cambia, per quel che mi riguarda, cambiano anche le cose che vai a cercare e le cose che ti vengono offerte. Cioè, sì, avevo fatto qualche tempo fa un esperimento con Radio Riot, una domanda, chiedendo a una serie di attori della scena punk italiana. Non facciamo discussione su c'è una scena o non c'è una scena, sì, vabbè, usiamo dei termini per capirci. Sì. Chiedendo che significato ha il punk. Ebbene, tipo il 70% di risposte era non ha significato. E questo effettivamente riflette benissimo quello che c'è in Italia, perché concerti ce ne sono, situazioni ce ne sono, però che tipo di situazioni? Quando la gente si è accorta che il do it yourself non era più una necessità, ha smesso di dire che era una scelta e ha iniziato a cercare, io dico, sottolineo, cercare di farci qualcosa di più. Poi cercare, perché poi sono pochi quelli che riescono a uscire e fare qualcosina di più. E quindi devo dire che per quel che mi riguarda gli stimoli sono venuti a mancare sempre di più. Vai a concerti, fai le tue cosine e poi però muore tutto lì. Quindi ritieni che, cioè, il discorso do it yourself sia un discorso che si lega soltanto a un periodo della vita, cioè qualcosa di circoscritto? Ovviamente diciamo che già il termine può in un certo senso limitare, anche se poi ci sono degli esempi di do it yourself che in qualche modo riescono a rimanere, diciamo, sulla cresta dell'onda, se così vogliamo dire. Allora, secondo me no, il do it yourself non è legato a un periodo della vita, è legato a una persona, quindi per una persona potrebbe essere legato a un periodo della vita. Assolutamente il do it yourself non è da legare a un momento o a solamente il punk. Cioè, a me il do it yourself ha cambiato il modo di vedere le cose, di concepire la realtà anche. E infatti quello che dico sempre è che attraverso il do it yourself bisognerebbe cambiare i modi di pensare, di dire e di agire sul mondo. E il problema è vallo a fare? Ma non il problema è vallo a fare perché è difficile da fare. Il problema è vallo a fare perché se non c'è quello che credo manchi adesso, una filosofia di fondo, certo, se non c'è una teoria, la pratica non serve a un cazzo. No. Ne parlavamo proprio sabato, che siamo andati a un centro sociale a suonare a Maddaloni vicino Caserta. C'è stato un incontro sul do it yourself, l'Independent Ways, fatta da Radio Diossina. E l'idea era proprio questa, cioè ci sono tantissime cose che vengono fatte, concerti, collettivi, eccetera eccetera eccetera, però poi manca qualcosa, una filosofia di fondo che leghi tutte queste realtà, ma che le leghi seriamente, che faccia dire a queste persone ok, stiamo facendo qualcosa di comune. Ma il discorso che, per come lo dici, sembra quindi che sia quasi una cosa meccanica ormai, no? Fare do it yourself. Secondo te, secondo voi, c'è un qualcosa che è adesso così, oppure è sempre stato e adesso ce ne sta rendendo conto con l'età? Che intendi per meccanica? E dicevi che si fanno appunto i concerti, si fanno tutto, okay, il discorso, però non c'è la filosofia di base, quindi sembra quasi che è un'abitudine, si faccia giusto perché va fatto, perché do it yourself, va mantenuto il discorso do it yourself. come la fede. Esatto. E c'erano a questo proposito i This Side Up, che in My Life, che peraltro ce l'abbiamo, My Life dei This Side Up. No, vabbè, in My Life dicevano: questa non è una Bibbia. Parlavano dell'hardcore, ma per me si può legare la stessa cosa. Questa non è una Bibbia, ognuno se la deve vivere nel suo modo. Allora, no, secondo me non è una cosa meccanica. Più che altro, guarda, io non voglio dare una mia interpretazione, perché può risultare deviante. Io però ti porto dei fatti. Concerti ce ne sono di continuo. Collettivi, ne è nato adesso un altro, Aci Project, di gente di Ostia che cerca di riunire tutti i gruppi do it yourself. C'era l'osservatorio sulle autoproduzioni, c'è Punks Meeting su MySpace che cerca di riunire tutti i concerti punk d'Italia, c'è un gruppo a Caserta, che un gruppo di persone a Caserta che hanno fatto una compilation su chi è i Fugazzi, per trasmettere il messaggio dei messaggi dei Fugazzi. Credo che siano di Napoli. Di Napoli? Sì, ah, la compilation dei Fugazzi. Ah, ok, di Napoli. E ti potrei parlare di mille altri progetti. Ma a cosa serve? Dove stiamo arrivando? Perché se non arriviamo da nessuna parte è musica fine a se stessa. Certo. È musica da cameretta. Allora io non ti ripeto, non voglio dare una mia interpretazione. Ah, succede questo, succede quest'altro. I fatti sono questi. Ci sono gruppi, microscene fortissime, vedi per esempio Bologna, che però sono rintanate lì, si fermano lì, non escono, non che non escono, che non se ne vanno in giro, ma non producono qualcosa che vada a incidere. Allora parliamo tutti del fuck the system, uso questo slogan strabusato, ma cerchiamo di capire a un livello più elevato che cosa voglia dire. Però alla fine non esiste il fuck the system, non fottiamo un bel nulla. Continuiamo a parlare di do it yourself all'interno di Radio Noise, all'interno di il centro sociale 28 dicembre dove siamo andati a suonare, e poi rimane lì. E mancano delle logiche. Per esempio, una cosa fantastica che era venuta in mente a che fanno i Kalashnikov, un gruppo che secondo me rappresenta nel migliore dei modi, o tra i migliori dei modi, il do it yourself in Italia. Una cosa che hanno fatto i Kalashnikov è togliere il prezzo dei dischi. E noi adesso l'abbiamo, con la loro ultima uscita, uscita pochi giorni fa, l'ultimo disco, l'abbiamo ripresa con Radio Riot. I dischi non hanno più valore, il valore glielo dai tu, decidi tu che valore dare. E questa secondo me è una cosa che sovverte completamente una logica di pensiero. Certo. Che ovviamente facciamo all'interno del do it yourself, non all'interno del lavoro che usi per vivere. Però dove arrivano? I Kalashnikov avevano proposto, mi avevano parlato, Sarta di Kalashnikov, di creare un'elite, ma non nel senso brutto, nel senso buono del termine, per fare un'elite di gruppi, di persone, che portassero avanti determinati messaggi. Poi non si è più fatta perché, non lo so perché, non te lo so dire. Però rimaniamo qui, rimaniamo fermi. C'era stata questa idea con Giulio di Deny Everything, di fare dei CD e andarle a distribuire con dentro delle canzoni, dei testi, eccetera, andarle a distribuire nelle scuole. Quello può essere uscito, cioè può essere uscire. Sì. Non lo so, ti ripeto, non do interpretazioni, però rispetto a prima c'è un calo della qualità enorme e un aumento della quantità inversamente proporzionale. Sì. Ma magari, non lo so, ci si sta rendendo conto che per riuscire ad uscire con il do it yourself, arrivate a un certo livello, bisogna in un certo senso accettare forse dei compromessi. E poi non è più do it yourself. Ecco, quello è il punto fondamentale. I Kalashnikov, senza accettare compromessi, adesso se ne vanno a suonare in Canada. Si sono fatti tutta l'Europa. No, la domanda che mi faccio io è come riuscire a fare in un certo senso emergere il do it yourself mantenendo il do it yourself. Bisognerebbe fare delle ore nelle scuole invece di educazione civica, educazione al do it yourself. Allora, innanzitutto bisognerebbe creare qualcosa di più solido tra di noi. Nel momento in cui tu, come ti ho detto, a me il do it yourself ha cambiato il modo di vedere il mondo, il modo di approcciare al mondo. Nel momento in cui questo è un cambiamento che avviene in tutti noi, nel momento in cui c'è qualcosa di consolidato, di forte, allora da lì la nostra vita vediamoci tutti come parte di un sistema, ok? Sì. Ma del sistema in generale, anche di quel fuck the system, quel system lì. Nel momento in cui tu cambi un elemento del sistema, cambia il sistema. È ovvio che se parliamo di sistemi enormi, cambiare un elemento non basta, ne devi cambiare più di uno. Nel momento in cui iniziamo a cambiare noi, a smettere di fare i concertini per muovere il culo e per drogarci con le sigarette, con le siringhe dentro no, questo è un discorso da vecchi. Però c'era una cosa bellissima che adesso mi è venuta in mente. Chef Ragù qualche tempo fa venne in nostra difesa, non mi ricordo il suo nome, comunque il batterista degli Anti-U, sì. In nostra difesa, non so neanche se lo ricordi, su un forum, che gente che ci criticava per una storia che manco sto a raccontare, legata a comunque diciamo a fottersi la mente, Chef Ragù disse: che cazzo vi state criticando voi, che poi siete prima magari sbattuti nei centri sociali in mezzo a un angolo con le pasticche in bocca. Schifose, aggiungerei. Schifose, ovviamente, ovviamente. Allora, se questo è il punto dove dobbiamo arrivare, beh, forse c'è bisogno di un cambiamento da parte nostra. Se questo è il punto di inizio e d'arrivo, un cambiamento. Se continuiamo a fare la rivoluzione in casa la penta, come dicevano nel laghetto, ma solo in casa la penta, dove non c'è bisogno di una rivoluzione, sì. Vabbè, sì. Cioè, smetto anche di suonare, perché per me non ha più un senso fare una cosa simile. Discorso complicato. È molto, molto complicato, sì. Poi io spero. Insomma, mi scuso per tutte le tangenziali che prenderò, perché io poi quando inizio a parlare vado da una parte all'altra, no, non so neanche se riesco a. Bene, ti fermo io, quindi ti fermo in questo momento, perché mi hai fatto una citazione. Abbiamo parlato di laghetto, abbiamo parlato di siringhe. E casualmente quindi abbiamo una canzone di laghetto. Abbiamo casualmente una canzone dei laghetto. Uomo pera. Ci siamo distratti perché stavamo parlando, ovviamente stavamo continuando il discorso. Cioè potremmo stare qui a parlare per giorni. Infatti sì, nel flyer c'era scritto che si faceva il punto della situazione, perché ovviamente è molto complicato riuscire a circoscrivere poi in due ore un discorso già complicato di per sé. Sì, mi hai scoperto, stavo mangiando. Ha beccato col sorcio in bocca. Va bene, quindi se siete pronti adesso a eseguire un nuovo brano. Il maestro, sì, Vessicchio. Dirige il maestro Vessicchio qua sotto in strada dalla finestra, lo possiamo vedere. Potete ammirare dalla finestra il maestro Vessicchio. Quindi intanto spostiamo il microfono, prossimo pezzo delle cose perse. Io, un attimo, due contatti, perché se dopo un'ora io non ho dato due contatti. Siete in ascolto di Transizioni di Fase in www.transizionidifase.org. State ascoltando, per la precisione, Radio Noise, che è nel contenitore Transizioni di Fase. Per scrivere a Transizioni di Fase, info@transizionidifase.org. Invece, per aggiungere Radio Noise come contatto MSN, radionoise@hotmail.it. Invece per l'email, radionoise010@gmail.com. E a voi le cose perse. Oggi ho deciso che vivere è grande, ma il dare il mondo è mio e mi deve pagare. Chiedimi perché non risponderò, chiedimi perché non risponderò. Ma non possiamo tornare ai sogni di una volta, non possiamo tornarci più. Controlla l'anima, o è il contrario, non ricordo. Sotto quel ponte ci incontrammo, e anche se collaborarò, se finimmo, non è più come i vecchi giorni, non è più come allora. Mi chiedo se sto male ancora. Io mi chiedo se sto male ancora. Chiedimi perché morirò, chiedimi perché morirò. Ma se domani devi andare via, forse è meglio che oggi io vada via. Ci sono belli aspetti nella vita, lo so, perché li ho visti, ma non così spesso. Sotto quel ponte ci incontrammo, scritto per noi da Johnny Marr. Torna il fantasma di Johnny Marr. Torna il fantasma di Johnny. No, questa, beh, una cover degli Smiths, riarrangiata e tradotta da noi e cantata male da me in questa occasione. No, no, assolutamente. Che comunque, voglio dire, rispecchia, per quanto mi riguarda, il vostro stile in pieno. Io ho appena trovato una definizione per le cose perse, che sono dei cantautori punk. Cantautori punk. No, perché ovviamente ascoltandovi sempre in elettrico, diciamo così, non, magari tante volte non si riesce a cogliere appieno determinate atmosfere. Io credo che comunque al di là del, ovviamente, dell'impossibilità per il momento visti i mezzi limitati, di riuscire a far suonare nel programma Radio Noise in elettrico. Peraltro ci siamo accorti che suonare acustico è proprio molto molto più difficile, a parte l'estensione vocale assurda, tra l'altro che cambiano, non c'è il supporto musicale sotto cambiano completamente tutti, cambia tutto, cambia l'atmosfera, noi cambia... ce la mettiamo tutta comunque, uscire dalla finestra nudi, no? Questa è la sensazione. Sì, mi è capitato una volta, effettivamente mi sento proprio come quella volta. No, quando c'hai una chitarra elettrica distorta, sei sul palco. Mi chiedono quale pezzo era degli Smiths. Il pezzo era Still Ill. Still Ill. Stavi dicendo, vai. È come uscire nudi sul balcone, no? Come darsi, dare la propria intimità a vista, suonare in acustico, per chi non è abituato. Io fra l'altro lo faccio spesso. Non che suoni in acustico, che esco nudo sul balcone. Vabbè, lo vedi? Quindi puoi. Vabbè, se lo fai spesso, però non ti senti oppure... a disagio nel farlo, vuol dire, quindi sei abituato. È l'ebbrezza del proibito. Sì, ci piace, no? O come quella sensazione che sarà capitata a tutti durante le superiori, di uscire e dire, oddio, ma mi sono messo i pantaloni? Vero? Un sacco di volte. Vero? Io, fra l'altro, a scuola non lo facevo, cioè non andavo con i pantaloni, spesse volte andavo in anfibi e pigiama. È una questione di comodità, certo. È un classico, sì. E questa era la prima volta che suonavate in acustico oppure l'avete già fatto? Una volta l'abbiamo fatto. In un locale, cioè no, abbiamo fatto addirittura un concerto in acustico. È una storia un po' complicata, era ad Arsoli. Però che poi credo che sia provincia dell'Aquila forse, o di Rieti. Comunque non era, mi ricordo. Era un locale. No, era una festa in piazza. Il problema è che praticamente abbiamo raggiunto un certo orario off limits, proprio, quindi erano circa 1:30 alle 2 di notte, il momento dell'esibizione era una cosa pazzesca, quindi con tanto di sabotaggio del concerto da parte di vecchietto locale con lancio di secchiate d'acqua. Abbiamo continuato praticamente, abbiamo continuato il concerto, diciamo altri 5-6 pezzi nello stand della birra in acustico, quindi insomma ve lo potete immaginare, alle 2 di notte c'era il tipo che faceva le birre, che era praticamente appeso sulla spilla birra, come possiamo dire. Era una cosa fantastica, veramente. Tutto il concerto in acustico. Praticamente abbiamo fatto solo 3 pezzi e poi però è stato un bel momento. Stupendo, fantastico. Sì, no, specialmente la cacciata è stata la fantastica. Cacciata. Col tipo che scendeva in ciabatte con secchio d'acqua, fantastico. E sfidava la folla. E la gente che gridava, è più punk lui di voi. È stato un concetto questo della trasgressione legata. Invece forse forse aveva pure ragione a dire più punk lui di voi, perché lui era uno che, come dire, difendeva la propria posizione, cioè lui forse voleva tenersi lontano il rumore, no? Certo. No, ma cosa c'è di più punk di un concerto in acustico nello stand della birra, ubriachi? Beh, credo. 50 persone lì, tutti ubriachi. Una cosa, un delirio. Adesso mi veniva in mente il domandone, ma credo che lo farò come domandone finale. Domandone finale, il mostro finale. A cui non daremo risposta noi personalmente. No, già noi, nel senso di noi, anche voi, anche noi. Noi sì, noi voi. Se voi lo chiedo adesso. Come vuoi tu, hai il tuo domandone? Il mio domandone è cos'è il punk? Va, allora. In verità per me non è un domandone, perché io ci ho pensato e ci penso di continuo. Dato che io penso troppo, come mi dicono tutti. Cazzo, vero? E no, per me sarebbe molto fastidio fare una cosa senza senso. Per me è stato inizialmente sicuramente un mezzo di espressione, e quello rimane tuttora. E una cosa che ho sempre adorato del punk è vai e fai. Sì, l'immediatezza. Esatto, l'immediatezza, bravo. È un mezzo di espressione. Poi è diventata una proposta di alternative insieme all'espressione. Ovviamente abbracciando il do it yourself, che poi in verità io non penso che di aver mai abbracciato il do it yourself, penso che sia il do it yourself che ha abbracciato me, nel senso, io sono convinto che se noi oggi ci ritroviamo a fare queste cose in questo modo è perché avevamo una tendenza che ci ha portato verso questa strada. C'era il seme, diciamo. Il? C'era il seme, diciamo. Esatto, bravo. Cioè non è che scegli. È un po' complesso, insomma. Un po' come il libro che scegliete. È un po' come una puntata. È un po' come una puntata di Lost, insomma. Arrivi alla fine e non ci capito un cazzo. No, vabbè, non vado oltre così. E poi è diventato un modo per fare anche qualcosa. O meglio, sono, per quanto mi riguarda, non so, Andrea, non so Moretto, sono nella fase in cui vorrebbe diventare qualcosa per costruire. Questa è una fase molto difficile. Mi dicono che sicuramente non è stato Malcolm McLaren a scegliere voi. Beh, in verità, caro ascoltatore, forse a 14 anni, a 13 anni, il nostro Andrea ascolta punk da quando aveva tipo 12 anni. Il nostro Andrea è punk da quando aveva 12 anni. E caro prima di essere punk cos'era? Quindi nei primi 12 anni di vita ero un bambino. Giocavo con lo skateboard e lo yo-yo. Un bambino punk, però giocava con lo skate, magari può rientrare nel cliché del... Io avevo lo skateboard della Ringo. Uno skateboard tipo largo 15 centimetri. Era tremendo, mi sono penso sbucciato le ginocchia e me le sono mangiate. Comunque, dicevo, caro ascoltatore, no, forse a 14 anni ci ha scelto Malcolm McLaren insieme a Joey Ramone e a compagnia bella. Però lì, vabbè, adolescenza c'è un'altra, c'è un'altra, un'altra mentalità. Poi dopo sei tu che fai una scelta più consapevole. Penso di essermi contraddetto 15 volte nell'arco di 12 minuti. Però può essere. Però la contraddizione in realtà è uno stimolo. Sì. È uno stimolo. Sei in continuo contraddittorio. Sì. Contraddittorio. Non usare questi termini avvocateschi. Perché io potrei usare termini psicologici. Poi facciamo una guerra. Scontro. No, in realtà mi piace come giurisprudenza come versus come termine contraddittorio. Contraddittorio. Beh, si riempie la bocca, un po' tipo no, piccione. Al di là del riempire la bocca, perché sembra un qualcosa in contrasto, ma in realtà non per non forza deve essere qualcosa in contrasto, ma può essere semplicemente uno scambio di opinioni e informazioni. Questa si chiama schizofrenia, lo sai? Guarda, io ci avevo pensato tante volte, però adesso, cioè, nessuno me l'aveva mai detto, ora che mi hai aperto gli occhi. Ora che il dottore in psicologia te l'ha detto. Io odio. Vabbè, ci ascoltiamo un altro brano. Sì. E così. Questo è il primo che mi viene sotto gli occhi. Loro sono La Crisi, si chiama Dov'è il finito il coraggio, il brano. La crisi, dove è finito il coraggio? Dove è finito il coraggio? Ah, noi siamo le cose perse, quindi non è che puoi chiederlo a noi, No, magari credo, nella ricerca costante delle cose perse riuscito a trovare le... Andrea, trovami il coraggio. Queste sono quelle... L'uomo, è l'uomo di là. Queste no. Sono quelle... È al leone che manca il coraggio. All'uomo di latta mancava il cuore. Il cuore, è vero. Quindi sono un po' come... E a Dorothy che mancava. E a Dorothy. Non mi pronuncio. Vabbè, cos'è il coraggio? Dove è finito il coraggio? Vieni, lo dico poi fra l'altro, ah, voi non lo vedete, però però Renato ci fa il segno tipo fate un pompino al microfono, poi voi immaginate che col pugno se lo avvicina alla bocca per dire succhiate il microfono. E vabbè, perché... Andrea slascia i pantaloni. Dove è finito il coraggio? Il coraggio di fare cosa? Il coraggio, coraggio di fare quello che si faceva prima, cioè qualche anno fa quando si era più giovani. Sempre in tema di do it yourself e di... Secondo me si riallaccia un po' al discorso di prima, il fatto del coraggio. Cioè, questa... nel senso, più che coraggio è ci si è rotte le, ci si è rotti le palle di determinati schemi. Sai oppure... cosa? Forse prima si aveva il coraggio di rischiare di più. Cioè nel senso, abbracciare il do it yourself in un certo senso non è che è un rischio a livello, diciamo, di vita. No, cioè, non rischi nulla. È un rischio, beh, dipende, insomma, beh, considerando che la distribuzione, allora, un gruppo, diciamo un gruppo di ragazzi, diciamo giovani, studenti, eccetera, che c'ha una certa disponibilità economica, decide di aprire un progetto, decide di aprire un progetto di un disco do it yourself. È una scelta comunque coraggiosa, se ci pensi. Perché? Perché comunque non è come per il grande artista che comunque si appoggia alla distribuzione, alla grande distribuzione, c'ha delle sicurezze, diciamo così, dietro le spalle, di avere il coraggio di rischiare quel poco che hai. Cioè nel senso, oltre ovviamente la faccia, il nome, cioè nel senso, io inizio a suonare, comincio a fare questo genere, mi esibisco in giro, ci sto mettendo comunque la mia faccia e il mio nome su queste cose. Se la cosa mi andrà bene, cioè riscuoterò un successo, diciamo successo, insomma, in scala minore per quanto possa essere quello del giro di tutti yourself, diciamo che ti va bene. Se, se diciamo che non, non c'è quel successo che speravi, tu hai rischiato comunque, a parte a livello economico, perché dovrai spendere comunque delle cifre che oggi sono minori di quelle di una volta, eh. Una volta per fare un disco, una volta intendo 20 anni fa, per fare un disco era una cosa pazzesca, cioè ci volevano comunque un budget assurdo. Oggi ci vuole molto meno, però comunque per un ragazzo è sempre un rischio. Questa cosa del successo che dice Andrea, questa cosa del successo che dice Andrea spiega molto bene il perché tantissimi gruppi, ma anche gruppi non noti, diciamo, scusate, non sospetti, facciano un disco che magari spacca, che è veramente bello, acclamato in tutta Italia, e poi si sciolgono. Vi è mai venuto in mente il perché si sciolgono dopo il disco più bello? Dai, io ogni tanto, cioè, oddio, forse le vie sono due: o non riescono a sopportare la pressione, che DIY, parlo di gruppi punk DIY, presunti tali. Beh, anche in quel caso potrebbe essere, nel senso che facciamo il disco, riusciamo ad essere poi all'altezza, oppure secondo me c'è pure un altro discorso, che è sempre quello di un po' c'entra pure l'età, cioè nel senso, più si è giovani più si hanno aspettative, diciamo così, più elevate, quindi magari c'è più disillusione. Arriva da una certa età, magari il tempo stringe poi. E non solo più si è giovani, secondo me l'oppure potrebbe essere, oppure c'erano delle aspettative che poi vengono tradite. Ma di che do it yourself mi parli se poi ci sono queste? Cioè voglio dire, io parlo dei giovani nel senso all'interno della scena punk, cioè giovane nel senso che hai il primo approccio alla musica punk, alla scena punk, diciamo così, perché ovviamente uno che ci suona da parecchio tempo, comunque conosce un po' come sono le cose, come funziona il circuito, sa benissimo che col punk ci farà ben poco in Italia, insomma, a livello monetario, diciamo così. Il problema è che questo l'ho trovato io con tanti invece gruppi vecchi, e facendo discorsi con si dice la colpa ma non il peccatore, ci sono gruppi che hanno proprio detto siamo arrivati a quest'età, cioè a quest'età poi tipo 27 anni, sì, però siamo arrivati, siamo vecchi, siamo 27 anni, adesso vorremmo qualcosa di più, che a me va benissimo, Però mi stai dicendo che quindi tutto quello che dicevi prima lo butti in eccesso. Perché per qualche cosa di più non intendono. Adesso vogliamo il rimborso di 50 euro quando andiamo al concerto. O adesso vogliamo una situazione a livello di backline e strumentazione un po' migliore. Va benissimo, quella è anche consapevolezza tecnica che va benissimo. Vogliamo di più nel senso, beh sai, siamo arrivati a 27 anni, sogniamo da 12 anni, adesso vogliamo farci soldi. Questi discorsi pari pari mi hanno fatto diversi gruppi. Non è questa, non è il sintomo di un impegno che non ha obiettivi, quello del do it yourself di alcune persone, proprio l'obiettivo di cui si parlava prima, cioè perché faccio il do it yourself, perché scrivo determinati testi, perché frequento determinati posti, perché organizzo determinate cose. Ma non è che non c'è questa continuità nel fare, nel dire, nel suonare e nel credere. E poi si arriva a un certo punto e l'età è il vincolo che mette il punto a delle situazioni che prima sembravano vitali, non lo sono più da un giorno all'altro, ma diventano di calcolo della vita. Non è proprio che forse la maggior parte delle persone che compongono questo movimento ci credono poco, cioè hanno alla loro vita appartiene poco questo modo di pensare nella vita di tutti i giorni, intendo, cioè proprio nel vedere il futuro. Non è una cosa, come dire, strumentalizzata, allora forse è diventata quasi una moda per alcuni. Guarda, io penso una cosa: il do it yourself è di per sé stesso il fine, cioè nel senso non è un discorso di età o di traguardi da raggiungere, appunto, cioè solamente che il do it yourself è di fatto una necessità, perché comunque è una mezzi, strada, diciamo, è una strada. Diciamo che sì, è una strada, è necessità nel senso che comunque è una strada più semplice per certi sì, versi, eppure anche più naturale e soprattutto più genuina, ma sicuramente. E comunque diventa, come si dice, si fa di necessità virtù, cioè nel senso che comunque diventa un obiettivo di per se stesso, cioè far parte comunque di un certo ambiente, di un certo contesto, è una cosa che comunque le dà soddisfazione. Certo, è una soddisfazione differente, non è la stessa di quello della band che esce per la major e fa, non so, 100.000, 200.000 copie, è una cosa differente, però non è detto che non dia soddisfazioni comunque. Però allora, qual è il, diciamo, il gradino che separa l'attività di una circostanza? Yourself, perché evidentemente in un'organizzazione do it yourself tu che ricevi sei la persona che ha strumentalmente più facilità nel recuperare, nel reperire, nel vedere, nell'avere visibilità di determinate situazioni. Allora quando si verifica questa cosa, che il do it yourself non soddisfa né le esigenze dell'artista tra virgolette, né stimola, diciamo, la fantasia e la curiosità delle persone, non vuol dire che c'è qualcosa di marcio allora dietro, non nel do it yourself, ma nel chi periodicamente lo abbraccia e poi lo abbandona da un momento all'altro. Non è proprio questo il vero problema del do it yourself, cioè la gente che lo compone in determinate situazioni. Cioè, per fare un esempio, un gruppo che produce un disco secondo la filosofia do it yourself, e la gente che riceve questo disco e come dire, ha la possibilità di scoprirlo, qual è la difficoltà? Cioè, perché il do it yourself si ferma dove invece un'organizzazione molto, diciamo, più aziendale arriva? Qual è il problema? Qual è il vero problema del do it yourself? Io forse lo vedo proprio nelle chiacchiere che si fanno, ma poi negli ideali che scarseggiano. Perché te il gruppo che vuoi ascoltare lo ritrovi nei centri sociali, lo ritrovi nei media che il do it yourself mette a disposizione. Però perché non si espande più di tanto? Io credo, vabbè, questo in sostanza si riallaccia a quello che diceva Flavio prima, cioè del fatto che manca comunque una filosofia. Arrivato a questo punto manca crederci. Mettiamo in chiaro una cosa, ragazzi: non esiste il do it yourself, non esiste niente lì fuori che sia tangibile, che si chiami Do It Yourself e che sia tangibile come un ciuffo di peli di un cane. Il Do It Yourself è un'etichetta data a un insieme di cose fatte da persone. Un'attività, un processo, un sistema, una società. Delle regole, è un modo di mettere insieme delle non regole, diciamo, oppure di non rispettare determinate regole per costruire qualcosa. È comunque un modo di diffondere e di vivere. Diffondere nel senso di far conoscere, non diffondere nel senso di bombardare. Al di là poi di vari significati che, grazie a Dio, ognuno gli può dare il proprio, Do It Yourself, secondo me hai ragione nel momento in cui dici che qualcosa di marcio si trova nelle persone che lo fanno, ma perché sono le persone che lo fanno, come in tutte le cose. Esatto, bravissimo, proprio questo volevo dire. Qualcosa di marcio, ma io non parlo di marcio perché non voglio pretendere che il mio punto di vista, il mio modo di viverlo sia l'unico giusto. Ritorno a citare i D-Side Up: non c'è una Bibbia, non è una religione. Loro dicono hardcore is my life. Secondo me questa frase è fantastica, è la mia vita, cioè è il mio modo di vivere. Ora, come diceva Re. E che poi ci sono due re qui. Come diceva l'uomo senza occhiali, possiamo dirlo che sei senza occhiali, ok. Come diceva l'uomo senza occhiali, da oggi in poi il tuo nick di radio sarà l'uomo senza occhiali. Sono persone che fanno tutto questo. Non mi ricordo che cosa dicevi, sai? Vabbè. E questa è una cosa persa. E questa è una cosa demenza senile. E questa, allora, detto questo, non ci ascoltiamo. No, aspetta, no. Così faccio palesemente la figura del coglione, quindi io volevo cercare chi sono, ma devo cercare devo cercare di riprendermi. Io invece volevo, vabbè, no, vai. No, come diceva, non volevo ammazzare. Vabbè, complimenti, bei testi. Bravo. Bravo. Mi ho capito, che lecchi Franco Bolli e te le appiccichi in testa e poi scrivi un testo. No, essendoci dietro una persona a fare Do It Yourself, quindi un insieme di persone, non c'è il marcio, non c'è la persona marcia, non c'è una. Ecco cosa diceva Renato, riprendendo quello che dicevo io. Non c'è una sostanza, una filosofia, un. Non so come chiamarlo, un pensiero univico, una, ecco, bravo, un'attitudine, come dicevano gli Arturo, un'attitudine punk, no, gli scenico, gli Arturo, un'attitudine punk che leghi tutto quanto. Allora io non lo so, perché non lo so se prima c'era, perché qui era veramente una necessità il Do It Yourself e quindi in sé anche una scelta. Ora però non c'è. E lì il 70% rispose: il punk non ha senso. Se il punk non ha senso, che ci prendiamo che esca fuori? Niente. Ma cioè, tutto questo che alla luce di questi discorsi sembra che, insomma, in sostanza qualcosa sia morto, una buona fetta del Do It Yourself in generale sia morto. Ma è perché è il momento del, diciamo, cambio generazionale, per cui coloro che si trovano adesso ad affrontare, in un certo senso, tra virgolette, o ad abbracciare il Do It Yourself, non hanno ancora i mezzi, oppure ci sono ancora le stesse persone di, che ne so, 10 anni fa che hanno perso il mordente? E, io, da buon credente nel karma, non credo che sia morto. Diciamo assopito, ecco. Diciamo anche assopito. Trasformato. Sì. Sì, assopito. Sai che c'è, che se noi guardiamo quello che c'era prima come Do It Yourself, ci viene a dire è morto. Però in realtà noi facciamo parte di un processo di continua trasformazione. Sì. Peraltro non diciamo che il Do It Yourself non esista adesso, perché ci sono gruppi. No, come, certo, gli Angst, no, infatti, TV, è una come, diciamo, una buona parte, ecco, non tutto assolutamente, perché altrimenti neanche noi staremmo qui. Esatto, bravo. Infatti io non voglio dire che è morto, no, io non lo so se è morto, non me lo chiedete, no, non è proprio il mio genere di risposte. Dico che nei fatti, l'unica cosa che io dico è che nei fatti quello che esce fuori è poco o niente. O niente. Questo per me è un fatto. E visto che il Do It Yourself, il punk, legato al do it yourself, si propone di essere qualcosa che crea qualcosa, se sta creando niente, allora c'è qualcosa che non va. Con queste ultime parole ci ascoltiamo i Rancore, il suonatore Jones. Gli altri vedeva siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vinta a dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vinta a svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Fini con i campi all'ortiche, fini con un flauto pesato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto. Io sono il numero zero, faccio i diffidenti quando passa lo straniero. In sclero, teso vero, verso scuro, picchio la mia testa contro il muro. Sono io l'amico di nessuno, stai sicuro. Resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci. Io non sono l'italiano medio, un cane senza museruola. La N e la W, a bassa parola, Cico canta che ti passa, ma non mi passa più. Testa bassa, la repressione mi butta giù. Schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia. Per me lo stato è solo stato di minaccia. Quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a scaffi dal magnaccia. Io lo so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se credo nella patria o no. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. Lo parlate allo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo l'attenzione sale. Sangue misto e non rispetta più il confine, viene da dove è stato cacciato fuori come un cane. Non ci sto, non ci credo, non ne voglio più. Sono disperso per lo stato e le divise blu. Scrivo come neffa, a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, l'arme rosso per l'estate, non si è più al sicuro. Stavi chiuso in casa ed è crollato il muro. Adesso è tutto quanto pronto per lo scontro con chi viene da fuori e non ci sta più dentro. Quello che mi hanno dato quando sono nato l'ho pagato. Ho bisogno di anni e una strage di stato. Ma dubbi sul mandante non ne ho, sono lo straniero, questo è quel che so. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. Io quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino. Terrone, muto, torna un po' da dove sei venuto. E questa è la prima roba che ho imparato in assoluto. La seconda è che sei fatto nell'istante in cui ti siedi, mentre sento la pressione dalla testa e piedi. La situazione per me non cambia, la merda resta merda. Cali della strada, razza bastarda. La sbarra sotto accusa ad ogni giorno c'è un buon motivo. E la giuria ha già detto il mio verdetto è negativo. Straniero nella mia nazione, perché qualcuno non mette fine alle storie di un coglione. La tensione sta da sale mille e vivo questa situazione sopra la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta. Guardo le mie spalle anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia, ne faccio salvato quindi resta in memoria. E un guaglione mette a fuoco il suo pensiero, resto fuori largo allo straniero. Dale, dale, dale, dale, no. Dale, dale, dale, dale, no. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. Dale, dale, dale, dale, no. Dale, dale, dale, dale, no. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. L'uomo senza occhiali ci ha chiesto questa canzone. Io sì, no, ma io da quando l'ho ascoltata, fatta delle cose perse, per me non è è diventato un brano delle cose perse. No, non più di Neppa, no, assolutamente. Cioè, bello il pezzo originale, però. Di Sangue Misto. Sangue Misto, però assolutamente non c'è paragone. Bravo Neffa che ha ispirato le cose perse a fare meglio il suo pezzo. Grazie uomo senza occhiali. E io mi chiedo a questo punto, come mai avete scelto questo brano? Perché? Come nato? Cioè, è stato casuale oppure, cioè, solo perché vi piaceva il brano? Oppure qua mi chiedono già il CD, eh? Ti chiedono il CD, sì, poi noi dobbiamo mettere in palio. Dobbiamo mettere, io ho detto 7000 CD delle cose perse. 7000 CD delle cose perse. Dobbiamo mettere in palio a 7000. A chi risponderà per 7000 primo? 7000 ai primi tre che risponderanno. No. E poi sono cazzi i vostri. Li smerciate voi. Allora, vabbè, io ho una grande mi dicono perché era già hardcore la versione di Sangue Misto. Era già hardcore la versione di Sangue Misto. Ci può stare, ci può stare. Però allora, io ho una grande passione per l'hip hop italiano. E ce ne siamo, almeno io me ne sono accorto, perché il modo di cantare, diciamo, rispecchia un pochino, sai, metrica serrata. Sì, a me piace molto. È una cosa che non c'era nel primo disco e credo c'era poco. No, c'era già nel secondo disco. Nonostante lasci ancora il testo libero senza rime a volte, sì. In altri casi mi piace molto anche la forma del testo, cioè come suona. Secondo me dà molto. E questo me l'ha trasmesso ovviamente l'hip hop. Neffa e Deda sono i miei MC preferiti. Stanno in cima insieme a altri come Caos, eccetera. E un giorno io gli ho proposto a loro con molto scetticismo, perché loro non erano molto vicini all'hip hop al tempo. Però gli è piaciuta. Il perché, beh, oltre al fatto che secondo me lo straniero sta in Sangue Misto come lo spirito continua sta in Negazione. E inoltre c'era anche il fatto che mi piace molto di questa canzone, oltre, come ho notato ovviamente tanti, c'è un messaggio politico e sociale. Certo. A me quello che piace di più in realtà è il messaggio introspettivo, considerarsi stranieri nella propria nazione. Poi vabbè, non vado in là, questa è la mia interpretazione. A me piace molto il significato simbolico anche di questa canzone. Come dire, in un certo senso, forse anche per questo motivo piace a me questo brano, al di là di come l'avete interpretato e come l'avete seguito, perché capita molto spesso. Io utilizzo un altro termine inglese, dico outsider, che in qualche modo rispecchia il concetto di essere straniero nella propria nazione, cioè essere al di fuori di quello che ti ha in un certo senso creato, diciamo. Quello che hai attorno. Sì. Io direi che no. Che sì e sì sono positivo, ma c'è mezzo un negativo che annulla i positivi. Esattamente. Mamma mia, quante pippe mentali che ci facciamo, cazzo. Esattamente. Vabbè, ma la trasmissione è quella che fanno alle 2 del mattino su Rai 1 col tipo che si fa le domande da solo. Fatti una domanda da Marzullo. Che cazzo fai? Che cazzo fai tu alle 2 del mattino? Guardo il tipo con le domande da solo. Ma lo utilizzi per addormentarti? No, dipende, perché no, per a volte scrivere le musiche delle cose perse. Esatto, e poi qualche volta mi prende così, quindi lo guardo fino alla fine. Quindi Marzullo può essere definito come ispiratore delle musiche delle cose perse. Marzullo uno di noi. Marzullo uno di noi. Tanto qua girano patatine. Sì, che peraltro che poi abbiamo scoperto adesso, no? Che le patatine al bacon. Non c'è il bacon dentro. No, come fanno a fare il sapore del bacon? È uguale. Allora, come diceva Bismarck, meno gli uomini. Tra l'altro è quello, dovrebbe essere quello dell'uovo, la Bismarck. Probabilmente era lui, esatto. Quello è l'uovo, la Bismarck. Ovviamente. Certo. Meno gli uomini sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi, e meglio dormono la notte. È meglio che. Beh, sì. Perché. Loro sta l'ignoranza, io tante volte dico che forse in certi casi l'ignoranza non è una brutta cosa. No, l'ignoranza aiuta spesso. Aiuta molto. Quando ci si sente così, no? Fuori luogo, un pesce fuor d'acqua. Facciamo gli ignoranti apposta. Sì, sì. I pesci sono tutti ignoranti. Come? I pesci sono tutti ignoranti. I pesci sì, perché non parlano. Non parlano, quindi ignorano. Ignorano. Sì. È degenerato il discorso. Che il delirio vada avanti. No, niente. Ok. Lud, proteggimi da loro, dalle cose perse, proteggimi. I figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. Dicono che il testo di Proteggimi dei Lud sembra la cura di la versione punk della cura di Battiato. Ah, è vero, può darsi, effettivamente. Mi hanno appena scritto. È possibile. Bellissimi, Lud mi piacciono veramente molto, sono stata una sorpresa. Tanto si ascolta buona musica qua, devo dire. Sì. A Radio Noise. A Radio Noise si ascolta sempre buona musica. Ottimo. E no, intanto io quando mi zittisco è perché mi stanno dando delle indicazioni dalla regia. Ah, ok. Allora, mi dice perché dopo Radio Noise ci sarà, come ogni sera dalle 23 all'una, Out of the Shell, delirio indipendente di intervento sociale. Bene. E mi dice colui che conduce Out of the Shell, detto anche lo zio Osborne italiano, perché è identico, di ai tuoi ospiti che prima della sigla gli faccio ascoltare quello che nella storia della musica italiana è quello come certificato il primo disco hip hop. Ok, interessante. Quindi vuol dire che siete piaciuti. Grazie. Vuol dire che siete piaciuti, si è appassionato ed è stato lui che è stato il primo a chiedere il CD. A proposito di CD, sulla locandina c'erano dei CD in palio delle cose perse. Allora sì, diamo 5 CD, 6 CD. 6 CD. Roviniamoci. 6 CD in palio a chi ci mandava un'email. Per primo con una propria foto, una qualunque foto, può essere anche una foto di uno sgabello. Ok. E le foto più, più belle verranno premiate con questi 6 CD. 6 CD a testa, ovviamente. E la mail è flavio@coseperse.it. Più facile di così. Sono leggero perché mi scrivono: mette Prisencolinensinenciusol, quindi è il tipo lì. Che cazzo si chiamava quello? Adriano Celentano. Ah, ok. Adesso mentre leggevo stavo iniziando a realizzare che forse era quello. Io non ho capito. Non lo so, adesso me lo faccio spiegare. Ma no, no, perché non so. No, no, no, no, Celentano. Ah, ok, allora praticamente stanno parlando tra di loro. Allora, quando ho detto del primo disco come certificato primo disco hip hop, allora dall'altra parte hanno risposto: mette quindi il brano di Adriano Celentano. Ah, è così. E sì, mi risponde quindi Out of the Shell, mi dice: no, no, no, Celentano. Però la prima canzone rap della storia, effettivamente ci forse potrebbe, però non Sordi. È quello. Però come Alberto c'è... Sordi, che in un americano a Roma cantava un pezzo in radio per gli americani. Quando faceva funzionare la radio e cantava, insomma, quello vorrebbe essere uno dei primi pezzi di pop. Però allora, visto che ci ha creato un po' di curiosità, quindi aspetteremo Out of the Shell alle ore 23 per vedere che cosa ci riserva, qual è questo misterioso primo disco hip hop. 22:35, siamo quasi alla conclusione della sesta puntata di Radio Noise. Io ringrazio anche da adesso, ma io li ho ringraziati dall'inizio, praticamente, da quando li ho conosciuti, quando in sostanza, siamo nati, da quando ringrazio. Sono nati. Io ringrazio Le Cose Perse per essere stati ospiti, ringrazio Relax Video Mitra per i flyer e per il supporto tecnico, fisico, mentale anche. Supporto fisico non penso che ecco, io l'ho detto, ma infatti io l'ho detto apposta. Meno male che in radio non si vede, insomma. Non è un miraggio, è Roberto Baggio. Ah, grande bacio. Detto questo, vabbè, di delirio. Allora, ci ascoltiamo un brano in studio delle Cose Perse. Vai. 1708. Ah, no, penso che dobbiamo suonare. No, in studio live. In studio. In studio, sì. Questa è una. Lo dico dopo. No, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Cose Perse 100. No, 1708. Abbiamo ascoltato il brano delle Cose Perse 1708, quindi adesso stava... Tanto per cambiare, cioè, io penso che questa sera sembriamo una cover band, perché tanto per cambiare è una cover, che non sai nessuno... Ma no, assicuro che non sono una cover band. No, assolutamente. Adesso facciamo due pezzi che... Sono bravissimi a fare il loro mestiere. Adesso facciamo due pezzi che sono nostri. Però è una cover dei Frammenti, che doveva finire in una compilation di gruppi hardcore, poi non si è mai più fatta questa compilation nel 2004, ricordo, infatti erano abbastanza acerbi. Però, vabbè, prima volta che si sente da qualche parte, perché non è mai finita in nessun disco, nessuna parte. Comunque fa sempre piacere ricordare i tempi andati, quando eravamo giovani. Sì. Adesso come siete? Siamo vecchi. Un po' meno giovani, ai peli bianchi della barba. Io però sono giovane dentro. Ma chi sarà mai? No, ma mi... A parte scherzo, per me l'età è un numero, cioè, è una costruzione umana. Che cos'è il tempo? Il tempo è una costruzione umana. Appunto, no, beh, però non solo umana, diciamo, Dopo, alla fine, quello che caratterizza il passare del tempo è proprio il mutamento molecolare delle cose. Ma secondo noi che lo chiamiamo tempo? Noi lo chiamiamo tempo. Sono solo reazioni fisiologiche. Esatto. Però... come la barba bianca. Però il tempo non può cancellare attitudini e freschezza mentale. Bravo, bravo. Mamma mia, come siamo vecchi a fare questi discorsi, cazzo. Però ancora ci sentiamo giovani, nonostante tutto. L'importante è quello. Ok, siamo pronti per... prossimo brano, Le cose perse dal vivo, questo però. In studio, Radio Noise, ma dal vivo. Ma dal vivo. Di nuovo rock and roll. E se non c'è paura di sgomentarci ancora, desideriamoci liberi al di là del pentimento. Vecchissimo, questo tipo non lo facciamo dal 1906. Ecco. Parlare di tempo. Non dobbiamo parlare di tempo. Lo facciamo da una data in memore. Ma prima stavamo parlando del disco, dell'ultimo disco delle cose perse. Sì. Registrato. Ah, sì. Negli studi. Abbiamo registrato negli studi, nella K Studio, cioè in verità era lo studio di Roma Libera Records di Percivalli, e c'era registrato Alessio di HK Records. Alessio Belin Melani. Alessio Belin Melani. Sai perché lo chiamo Belin? No. Detto anche testa di ginocchio. Testa di ginocchio. Sì. Beh, effettivamente la sua testa. Deve essere la voglia fra i capelli. Belin, appunto, perché ha una testa molto... a forma di ginocchio. No, io posso dire una cosa di lui. Lui secondo me è un tipo proprio straordinario. A parte per la professionalità, comunque. E noi abbiamo registrato con varie persone, anche cioè, soprattutto prima di lui, perché dopo di lui siamo rimasti fedelissimi. E lui c'ha di buono che comunque, a parte la passione che mette nel suo lavoro, eccetera, dà dei consigli che sono stati fondamentali per noi, anche per accrescere proprio il bagaglio, diciamo così, di capacità tecnica a livello di registrazione, quindi a livello di studio, eccetera. Lui è un personaggio proprio straordinario. E poi lui, fra l'altro, aveva pure un bellissimo gruppo, si chiamava Bermudas. I Bermudas, cioè, fantastico. Sì, ma tra l'altro io ci raccontò un aneddoto che non so se ha raccontato anche a voi, di durante un turno con i Bermudas. Quando dovevano partire, e lui stava entrando nel furgone, però siccome la notte prima, insomma, non era stato bene, per così dire, nel momento in cui entra nel furgone gli scappa qualcosa e deve riandare a casa a farsi una doccia. Così abbiamo sputtanato. Però no, al di là di questo, sì, è una persona, io credo che potrebbe fare le... non potrebbe, fa sicuramente le scarpe a grandi professoroni della musica. Assolutamente, assolutamente sì. Ho detto, la professionalità che poi dimostra in studio, comunque togliendo anche il fatto che comunque è uno, è giovane, simpatico, eccetera eccetera, tutte, ma quello è... però è veramente precisissimo. Io ti dico, guarda, non sto neanche a dire che è giovane e simpatico, perché no, nel senso, per quanto riguarda la persona, sono, non sono a questo punto complimenti, ma nel senso sono degli aggettivi che lo limitano in un certo senso. Gli vogliamo bene, gli vogliamo molto bene. Non lo sappiamo se è in ascolto, ma ti vogliamo bene, Alessio. Ah, lui riceve ogni settimana, riceve sempre le email. Io spero se ci sta ascoltando, lo salutiamo, ti vogliamo tanto bene. Presto ci rivedremo. Peraltro, raccontiamo un aneddoto, spirito di DIY. Il secondo disco delle cose perse, 3, è stato pagato in metà in contanti, nell'altra metà montandogli, Mauro e Andrea, un condizionatore. Te l'hai ricordato? Nel suo studio di registrazione. Che mi sa che suo studio a Colle Verde, no? No, non quello a Colle Verde, quello che stava sotto il negozio a Boccea, al negozio di strumenti musicali. Okay. Infatti l'abbiamo montato al suo padrone, come si dice, al suo landlord, non mi viene in mente come si dice in italiano. Era precedente al 2005? Perché i cani di Sara hanno registrato nel 2005 a Colle Verde. No, nel 3 è uscito nel 2006-2007. C'è qualcosa che non va, adesso ci facciamo due conti. Sì, è passato dopo a Boccea, sì, dopo Colle Verde è andato a Boccea. Allora, vabbè, ci ascoltiamo a questo punto un prodotto della K Records, dal punto di vista della registrazione, anche della produzione in un certo senso. No, in un certo senso, anche della produzione, perché ha anche prodotto questo gruppaccio. I cani di Sara, Michael Knight, quello che c'aveva Kit. We'll be right back. Loro erano i Cani di Sara con Michael Knight, tratto dal disco 100 kg, prodotto dalla K Records, registrato dalla K Records e prodotto da altri K Records, una collettica e non mi ricordo, Mania Records, Fast Lap Records e via dicendo. E su Flavio si era... Sì, mi ero incantato sui disegni e le foto della tua stanza, sui del tuo studio. Nel mio studio. Ops. Nel mio studio. Un uomo con gli occhiali, senza occhiali, si sanno sempre più dettagli su di te. Non va bene. 22:49, siamo giunti quasi alla fine della sesta puntata di Radio Noise. Io ringrazio, come ho fatto prima, ringrazio nuovamente le cose perse. Stavamo appunto dicendo che cazzo 2 euro sono troppo poche. Mamma mia. E ci iniziamo a divertirci. Sì. Però ovviamente allora rinnovo l'invito delle cose perse. Un poco di scuole, un poco di convenevoli a questo punto, no? Vabbè, classiche cose, chi vuole seguire un po'. Ultimamente siamo un po' meno attivi sul web, però stiamo riniziando a esserlo, forse. Comunque trovate materiale, robe varie, sia su coseperse.it che su myspace.com/coseperse_DIY e su Facebook. Facebook alla pagina Cose Perse, anche insomma aggiornamenti per i concerti, piccoli racconti. Peni. Piccoli racconti. Piccoli racconti. Piccoli aneddoti. Live in vista. Live il 29 suoneremo appunto a Monterotondo Scalo, a Piazza Borgonovo. No, Piazza Falcone Borsellino. E con Banda Passotti, Klaxon e Gang. Stereotypes anche. E gli Stereotypes. E poi cos'altro? C'è l'idea di organizzare un concerto benefit, nonché benefit per Porro, di Porrozino, nonché festa per 10 anni di Radio Riot, però non si sa se riusciremo a farlo, vedremo. Per quando, quindi non ti chiedo. Per quando no, in verità io speravo per luglio. Okay, però c'è chi dice. Esatto, estivo, c'è chi diceva dicembre, vediamo. È più bello luglio. Sì, decisamente. Più divertente luglio. Potremmo farlo sulla spiaggia, no? Con tanto di falò, bikini party e roba, esatto, del genere. Adesso vedremo. Esattamente, luglio è più bello. Beh, l'appuntamento. Vi diremo anche a voi quando abbiamo deciso, così almeno darete l'appuntamento anche in radio. Tutti al mare. Certo. Allora, a proposito di radio, i contatti questa sera l'ho detto solo una volta e sono affranto. E radionoize@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, radionoize010 scritto in cifre @gmail.com per scrivere l'email. Siete sempre in ascolto di Transizione di Fase, www.transizionedifase.org, info@transizionedifase.org per scrivere, segnalare, per insultare i ragazzi di Transizione di Fase, quindi anche Radio Noize. Però Radio Noize c'avete il contatto diretto per insultarlo, quindi. Detto questo, noi ci ascoltiamo. Prima di salutarci definitivamente, io inizio sempre a fare i saluti almeno 20 minuti prima. Andiamo ad ascoltare gli Affranti, l'ho appena nominato in un certo senso. Affranti, c'è qualcuno? Ehi, prova a parlare con me. Mi senti? Voglio che tu parli con me. Ehi! Voglio che parli con me, cazzo! Dimmi qualcosa! Perché cazzo non provi a dirmi una cosa? Tacere, copri le loro voci, io occhi adesso. Adesso posso aprire gli occhi. Posso aprire gli occhi. Adesso posso aprire gli occhi. Adesso posso aprire gli occhi. Posso aprire gli occhi. Adesso. Franti, c'è qualcuno. C'è qualcuno, quindi. Alla fine di tutto il discorso fatto, che ovviamente non può essere chiuso, come ho detto prima, in due ore. Questa scena è italiana. Com'è? Cioè, proprio, no, detto, no. Proprio la domanda. Com'è questa scena italiana? No, guarda, Renato, un uomo senza occhiali. mi rifiuto assolutamente di dare. Almeno io di dare. Etichette, di dare spiegazioni alle definizioni, di dare interpretazioni. Comunque qualcosa è cambiato, vabbè, ma quello è per forza. Hai detto qualcosa è cambiato? Qualcosa, ma l'hai fatta apposta? un po'. ma tu sapevi che il pezzo adesso suoniamo si chiama Qualcosa è cambiato? No, sapevo che c'era un pezzo che... Che si chiama Qualcosa è cambiato? Sì. Ah, lo sapevi? Sì. Ah, ok, allora, perché sennò era veramente un sincronismo che... incredibile. Allora vuol dire che, cioè... nostro inconscio, c'è feeling, c'è feeling, c'è feeling, c'è feeling, c'è, no, c'è a sto giro, c'è William Brown, okay. Signor Giorgio Todi. Sì, facciamo questo pezzo mo che no, veramente mi rifiuto di dare spiegazioni, ok, perché non lo so, non me lo chiedete, io non so niente. Allora lasciamo senza spiegazioni. Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato. Finisce la sesta puntata di Radio Noise, quindi ritengo che il primo esperimento live con le cose perse, in questo caso, sia andato a buon fine. Ringrazio per l'ennesima volta le cose perse, per il loro supporto, apporto. Grazie a te. Disponibilità, perché poi ricordo che la playlist di questa sera, per quello che avete ascoltato in sottofondo e per quello che avete ascoltato direttamente, è stata scelta direttamente da Flavio delle cose perse, anche perché la scelta di Radio Noise è quella di dare ai gruppi che vengono in studio la possibilità di scegliere loro le loro playlist. Vi ringrazio di essere stati in ascolto, ringrazio Relax Video Mitra sempre per i flyer che sta preparando anche per la prossima puntata, che probabilmente sarà una puntata di quelle aggressive, se riusciamo. Quindi ringrazio a voi di essere stati in ascolto. Vi lascio con l'ultimo brano delle cose perse. Ricordo www.coseperse.it, se volete andare a vedere, quindi a leggere gli scritti di Flavio, a insomma aggiornarvi sui loro live. Io personalmente vi consiglio di andare a vederli, perché è comunque molto molto divertente, soprattutto vedere le facce di Mauro mentre suona. Mauro fa facce mentre suona? Mauro fa facce mentre suona. Ti giuro io non ho mai guardato Mauro. Beh, è chiaro, è normale. Mauro fa facce mentre suona. Che tutti sono concentrati sulle facce di sua sorella. No, veramente ragazzi, mi hai lasciato. Questa è una storia vecchia, vabbè. Sono 15 anni che sono con Mauro, fa facce Mauro mentre suona. Mauro fa facce. Tipo il batterista Marco degli Evangeline, dei Kill Time, dei Test X. Marco. Non sappiamo. No, questi non. No. Fa facce. Cazzo. Fa facce. Tipo, che ne so. Termini di paragone fra le facce storte dei batteristi. Tipo, alle facce storte dei batteristi. Vabbè, non sappiamo. Adesso non mi viene. Va bene, quindi. Ah, proprio sì, il batterista di Duff. Che stiamo ascoltando. Fa facce? Fa facce. Per esempio. Forse sì. I batteristi devono fare facce. Forse fa parte del suonare la batteria. Può essere lo sforzo. Sì. Allora, vi lascio con l'ultimo brano delle cose perse. Vi ringrazio di essere stati in ascolto. Buonanotte, ci sentiamo martedì prossimo. Occhio alle mail perché dopodomani parte il prossimo flyer. Buonanotte a tutti, grazie. Vi lascio con Out of the Shell subito dopo Radio Noise. Grazie a tutti, buonanotte. Se fosse il momento, ma io non avessi fretta di arrivare. Ombra, dove sei? Non vieni anche stasera a scarnificare l'anima mia. Ho vissuto 7 vite, 70 volte, 7 ancora ne ho da vivere e da scrivere. Passato in che guaio mi hai cacciato, l'inizio è cambiato, almeno il finale è mutato. Giuramelo, e stavolta qualcosa è cambiato, Poseidon è quieto, Omero è muto, Ulisse è arrivato, il mio simposio è stato solo col mondo lasciato dal luogo. Stavolta, dove sono i miei commensali? Come bevo dai calici amari, senza l'ausilio dei demoni oscuri. Destino nemico mio, dove sei? Karma, hai già terminato le tue lezioni e le punizioni. Essere da soli, imparare dagli errori, godersi i terrori, che oggi qualcosa funzioni. Se non è neanche sale sulle ferite, dimmi vita come viverti.